Vissi d'arte, Vissi, la trasmissione del martedì femminista e lesbico autogestito dedicata alle donne d'arte. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenute ad una nuova puntata di Vissi d'arte Vissi, intitolata quest'oggi da Isabella a Isabella, conversazione sul collezionismo delle donne. Ne parleremo con Nicolette Mandarano, storica dell'arte e studiosa di collezionismo. Ciao Nicolette. Ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, per cominciare potremmo spiegare alle nostre ascoltatrici il titolo di questa puntata, da Isabella a Isabella, conversazione sul collezionismo delle donne. Sì, dunque, il titolo si ispira a due grandi collezioniste di nome analogo, Isabella d'Este, grande collezionista del Rinascimento, e Isabella Stuart Gardner, altra grande collezionista, che visse invece nell'Ottocento e a cui si deve la creazione del Museo di Boston, che porta appunto il suo nome. I nomi di queste due donne, così lontane nel tempo l'una dall'altra, servono a iniziare con la premessa che le collezioniste sono state presenti in ogni secolo. Anzi, per la precisione, sono state presenti dal 200 ai giorni nostri. Come spesso accade, infatti, parlando e studiando determinati fenomeni culturali, si tende a dimenticare che accanto agli uomini ci furono le donne. È così che sui manuali di storia del collezionismo si parla quasi sempre di uomini, ignorando o omettendo l'esistenza di donne collezioniste. Eh già, e invece ne possiamo annoverare un certo numero, dal Rinascimento alla contemporaneità. Abbiamo già nominato Isabella d'Este, ma poi possiamo citare Cristina di Svezia, Caterina e Maria de' Medici, Caterina II di Russia e poi ancora Peggy Guggenheim, Catherine Dreyer, e non esauriamo di certo l'elenco solo con questi nomi. Comunque sembra un numero esiguo, però bisogna tener conto, credo, di alcuni fattori che limitarono l'azione delle donne collezioniste. Ad esempio il fatto che nella maggior parte dei casi il potere decisionale ed economico a corte fosse in mano agli uomini. Certo, questo è un elemento che non va assolutamente trascurato. Un dato interessante di cui tener conto, parlando del collezionismo in generale e di quello delle donne in particolare, è la contiguità tra il ruolo del o della collezionista e quello del o della committente. Cioè, vale a dire, molti di coloro che collezionarono oggetti ed opere d'arte non si limitarono ad acquistarli sul mercato dell'arte, ma li commissionarono proprio ad artisti specifici. Mi vengono in mente, qui per fare dei nomi così conosciuti, Federico da Montefeltro ad Urbino o il più noto Lorenzo il Magnifico, oppure, tornando al femminile, Isabella d'Este o nel 600 la regina Maria de' Medici. In effetti i due ruoli, quello di collezionista e di committente, finiscono quasi sempre per sovrapporsi. It's all luck, it's just luck. Per rimanere in epoca rinascimentale, Isabella d'Este è un caso emblematico di donna di grande cultura e volontà. Committente esigentissima, collezionista appassionata e vorace, il suo modo di pensare e volere l'arte è espressione di un lucido progetto intellettuale che si riflette nel suo studiolo. Hai nominato fatalmente lo studiolo. E allora diciamo cos'è. È un luogo molto piccolo, solitamente collocato in un luogo appartato all'interno dei grandi palazzi o dei castelli, dedicato sostanzialmente allo studio e alla riflessione. Come origine lo si fa risalire agli scrittori in cui lavoravano i monaci, per divenire col tempo poi una sorta di piccolo rifugio intellettuale, più o meno impreziosito da libri o opere d'arte Ricordo con molto piacere lo stupore provato vedendo nella Casa Buonarroti di Firenze lo studiolo di Michelangelo il Giovane, il nipote del più celebre artista. Uno stanzino largo non più di 2,5 metri, profondo meno di 2, in cui entrava appena appena un tavolo stretto, uno sgabello, alla parete una piccola libreria angolare. C'era una finestrina minuscola, ma la cosa più bella era che lo stanzino, davvero un ripostiglio di scope, aveva il soffitto dipinto come un cielo, con piccole nuvole passeggere e un volo di rondinelle. Dava l'idea di un luogo angusto fisicamente, da cui però si poteva partire con la mente verso l'infinito. E pensa che lo studiolo è un luogo molto importante per chi studia il collezionismo, perché è proprio nello studiolo che vengono raccolti per essere conservati i primi oggetti, che siano opere d'arte o meno. E infatti, fra questi oggetti possiamo anche trovare pietre, conchiglie, strumenti per la scrittura o per la misurazione e anche animali imbalsamati. Tornando invece a Isabella, quando giunge a Mantova nel 1490, giovanissima sposa di Francesco II Gonzaga, nel suo appartamento nel castello di San Giorgio si fa ricavare uno studiolo e una grotta. A quanto si sa, è la prima volta che una donna crea per sé luoghi di tal genere, che prima erano ad uso esclusivamente maschile. Isabella poi fece replicare i due ambienti anche quando nel 1515 si spostò ad abitare in Corte Vecchia. Se lo studiolo serviva appunto per la meditazione e lo studio, la grotta invece era stata pensata anche per contenere parte della collezione di Isabella. Vi trovavano posto opere d'arte, piccole sculture in marmo e in bronzo, pezzi antichi, ma anche i cosiddetti mirabilia. abbiamo nominato prima i mirabilia all'interno dello studiolo. Cosa sarebbero i mirabilia? Sono oggetti, erano oggetti che suscitavano meraviglia. Pezzi di gioielleria estremamente raffinati, vetri soffiati, ma anche rarità naturali, come penso un po' il corno di unicorno. Celeberrimo. Sì, simbolo di verginità e purezza, che molti si vantavano di possedere nelle proprie collezioni. Naturalmente in realtà non si trattava nient'altro che di denti di narvalo. Pesce. Un pesce. Assolutamente comune. Era raro pure quello, esatto. Però non era l'unicorno. Allora, Isabella aveva comunque di suo un certo gusto dei luoghi segreti in cui coltivare i propri interessi. Voglio ricordare qui ad esempio la perduta villa di Porto nella campagna mantovana. Qui Isabella usava ritirarsi con le dame della corte e le amiche, come l'amatissima cognata Elisabetta, per dedicarsi allo studio e alla musica. La villa di Porto fu lei lasciata in eterno alle duchesse Gonzaga nei secoli futuri, proprio per sottolineare il carattere tutto privato, femminile ed esclusivo di quel luogo che possiamo immaginare incantato. Allora, tornando a Isabella, collezionista e committente. Sì, Isabella, oltre a collezionare opere d'arte e oggetti di vario genere, come abbiamo detto, fu anche una grande committente, e lo fu soprattutto per la decorazione del proprio studiolo. Commissionò per il proprio ambiente privato una serie di dipinti che rappresentavano scene mitologiche, cui potevano essere date letture moraleggianti, con temi come la vittoria delle virtù sui vizi o dell'amore casto su quello carnale. La collezione pittorica fu pensata come un campionario di opere dei principali maestri italiani. Per ottenerli, naturalmente, Isabella, donna veramente di polso, condusse anche trattative estenuanti con i pittori, ovviamente estenuanti per i pittori. Certo. Dal pittore veneto Giovanni Bellini, ad esempio, dopo lunghe insistenze, Isabella riuscì ad ottenere solo una natività ed un festino degli dèi. Pietro Perugino invece terminò il lavoro per lo studiolo solo dopo ripetute sollecitazioni, con grande ritardo e soprattutto con grave disappunto di Isabella. Beh, allora sottolineiamolo, perché lei sarà anche stata piuttosto pressante, ma non mi sembra che questi artisti si dessero un grande affare. Sei di parte. So we will be ya bum, we will be do ya boom be boom be ya. Say a day a day a day boom boom be boo be. Shaba bidip bip bip do be. Shaba bidip bip bip do be. I'm mad at you, pretty baby, don't be mad at me. Shaba dilly doom boo see do dee. Jean Malachi. Benjamin. Siete in ascolto di una puntata di Vissi d'Arte Vissi, dedicata alle collezioniste d'arte nei secoli passati. Argomento affascinante di cui parliamo con Nicolette Mandarano, storica dell'arte e studiosa di collezionismo. Tornando ai quadri nello studiolo di Isabella d'Este, marchesa di Mantova, si tratta di dipinti celebri, opere di grandi artisti. Sì, nello studiolo trovavano posto due tele del Mantegna, il Parnaso e Minerva che scaccia i vizi dal giardino di virtù, una battaglia di amore e castità oggi conservata al Louvre del Perugino, due tele di Lorenzo Costa con l'incoronazione di una dama, probabilmente si tratta dell'incoronazione della stessa Isabella, e la storia del dio Como. E infine, come ultimo atto, Isabella commissiona al Correggio nel 1530 due tele che dovevano chiudere il ciclo e che emblematicamente rappresentavano l'allegoria del vizio e l'allegoria della virtù. Ma per capire meglio la determinazione di Isabella nel voler entrare in possesso di opere d'arte, possiamo leggere direttamente le sue lettere. Ne ho scelta una, datata 27 giugno 1501, e lettera inviata a Giovanni Bellini. Dopo aver martellato senza tregua l'anziano pittore, scrive al proprio referente a Venezia. Ve lo leggo così, poi cerchiamo di... Se Zoanne Bellino fa tanto mal volentieri questa storia, siamo contente remetterne al giudicio suo, purché il dipinga qualche storia o fabula antiqua. Insomma, vuole avere qualunque cosa, qualunque, purché sia di mano di Bellini. Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. Per completare il ritratto della passione divorante di Isabella d'Este per il collezionismo, dobbiamo anche ricordare che alla morte di Giorgione e prima ancora di Andrea Mantegna, la prima cosa di cui si interessò fu di sapere se c'erano opere d'arte rimaste nello studio degli artisti e che potessero essere acquistate dagli eredi. Addirittura, in occasione della morte di Mantegna, insomma, sembra che fosse particolarmente pressante e velocissima, sembrava quasi che stesse aspettando che l'anziano maestro stesse lì lì per morire. Bene, un altro personaggio storico notevole è Cristina di Svezia, la cui vita turbolenta affascinò e scandalizzò le corti di mezza Europa. Regina di Svezia, gelosa della sua libertà e della sua indipendenza, al Senato, che nel 1649 la sollecitava al matrimonio, risponde: «Il matrimonio implica soggezioni alle quali io non mi sento in grado di sottostare e non posso prevedere quando sarò in grado di vincere questa ripugnanza». Niente poco di meno. Esatto, come la comprendiamo. Successivamente, dopo una clamorosa conversione al cattolicesimo maturata in seguito alla frequentazione del filosofo francese Cartesio, abdica in favore del cugino Gustavo Adolfo e scende a Roma nel 1655. Ancora oggi, la Porta del Popolo reca l'iscrizione «Felici Faustoque ingressui» in memoria dello storico evento. Ci diverte peraltro rilevare che, a nostra conoscenza, lei non è solo una delle sole quattro donne sepolte in San Pietro, ma anche l'unica lesbica. Della vita lesbica di Cristina di Svezia non conosciamo moltissimo. Abbiamo notizie della storia d'amore con Ebba Sparre, sua dama di corte, e poi sappiamo della sua passione per gli abiti maschili. A Roma, Misson, negli anni 60, la descrive così: «Sarà difficile immaginarvi i suoi vestiti, una giacca da uomo di satin nero che le raggiunge le ginocchia, tutta abbottonata, con una maglietta nera molto corta, scarpe da uomo, assieme ad una serie di nastri neri a mo' di cravatta, il tutto accompagnato da una cintura nera stretta allo stomaco che ancor più rivela le sue rotondità». Bizzarra ma interessante. Ma Cristina è anche un esempio di collezionista. Giovanissima diviene regina ed entra in possesso della collezione d'arte di suo padre, Gustavo II Vasa. Dopo la rinuncia al trono di Svezia, parte alla volta di Roma, dove si converte al cattolicesimo, come giustamente hai detto, portandosi dietro non solo una fornitissima biblioteca, ma anche molte delle opere migliori della collezione d'arte. Una volta a Roma, però, continua ad acquistare opere, entrando in possesso, fra le opere più importanti, di una delle tele di Tiziano raffiguranti Venere e Adone, e soprattutto della Danna e del Correggio, ora conservata alla Galleria Borghese di Roma. A Roma abitò lungamente in Trastevere, a Palazzo Riario, oggi Palazzo Corsini alla Lungara, attuale sede dell'Accademia dei Lincei. Alla sua morte, purtroppo, la collezione andò dispersa, ma ancora oggi una targa segnala la stanza da letto in cui morì, e tra le opere della Galleria Corsini possiamo ancora ammirare alcune decorazioni da lei volute. Sul versante della committenza abbiamo invece l'esempio di un'italiana in terra di Francia. Eh sì, e passiamo a parlare di Maria de' Medici, regina di Francia dal 1600, quando andò sposa Enrico IV. Nel 1621 la donna decide di commissionare a Rubens un monumentale ciclo di tele, oggi esposto al Louvre, che doveva decorare la galleria del Palazzo del Lussemburgo. Si doveva trattare di un ciclo encomiastico dedicato alla sua vita e alle sue opinioni politiche, dalla nascita di Maria all'arrivo in Francia, dal suo matrimonio con Enrico IV all'incoronazione in Saint-Denis. Rubens venne chiamato a ripercorrere le tappe della vita della sovrana. All that seeks to be free to fall in apathy, free to slip away unseen, free to sleep away and dream, free to strike a new accord, free to choose your own reward, free to contemplate the stars, free to never get too far, free to find a new way out, free to whisper, free to shout, free to scramble all about beyond a shadow of a doubt, free to stifle quiet screams, things are never what they seem, free to never quite succeed, free to symbol until we dance, and so we dance, and so we dance. and sewing things. And while you sleep, the lies you keep just bury you so deep. And what you said spins your head, you lose everything instead. Tangled up and now you know, no Willie's nowhere to go. Could find a way, could win today, when everything seems miles away. Start to run, run to hide, just hide deep inside. Take anything to dull the sting, that's all there is until we sing. And so we sing. And so we sing. And so we sing. Solo regine però tra le collezioniste. I monasteri erano luoghi in cui non solo esistevano monache artiste, pittrici e miniaturiste, o come abbiamo visto in una puntata precedente, musiciste e compositrici, ma erano anche luoghi dove si raccoglievano opere d'arte sia pure a maggior gloria di Dio. Pensa a Giovanna da Piacenza, abbadessa del monastero benedettino di San Paolo a Parma. Donna coltissima, aprì gli spazi monastici alla musica e alla letteratura. Curò molto anche la decorazione dei locali del suo convento, fino a chiamare nel 1519 il Grande Correggio per decorare una camera da ricevimento nel suo appartamento, con storie di Diana e altre divinità dell'Olimpo. Sempre a maggior gloria di Dio. Esatto. La Camera di San Paolo è uno dei capolavori dell'arte di Correggio, anche se di essa se ne perse velocemente la memoria allorché, morta la badessa, cambiato con la Controriforma i suoi rigori, il clima culturale del monastero, tutto l'appartamento divenne zona di rigida clausura e fu praticamente riscoperto solamente nel Settecento. Giovanna era sì badessa benedettina, ma ancor prima era donna aristocratica, amante delle arti, curiosa e aperta al mondo. Conosciamo ad esempio la sua corrispondenza con Veronica Gambara, signora di Correggio e ottima e apprezzata poeta. Il monastero è dunque sì luogo di separazione, ma anche il luogo in cui forse molte donne hanno potuto scoprire insospettabili spazi di libertà. Eh sì, e infatti le chiese con gli annessi conventi sono i luoghi in cui vengono raccolti i primi mirabilia, come ad esempio la scaglia di marmo proveniente dalla colonna della Flagellazione o lo specchio della Regina di Saba, veramente non so quanti sì. Ce ne fossero, e sono anche i luoghi in cui si cerca di dare un nome ad anonime ossa per farne venerate reliquie poste in sontuosi contenitori. Aggiungerò di più. Seppure è ancora una cosa da studiare, però ritengo che la prima collezionista di cui si conservino tracce storiche rilevanti sia proprio una monaca, la beata Filippa Mareri. Siamo nel 200, fondatrice del monastero del Clarisse di Borgo San Pietro. Discendente dalla nobile famiglia dei Mareri, incontrò Francesco d'Assisi che l'avviò alla vita monastica. La sua famiglia ostacolò questa scelta, per cui Filippa fuggì da casa insieme ad alcune compagne e si rifugiò in quella che oggi viene chiamata Grotta di Santa Filippa e vi rimase circa 3 anni, fino a quando, nel 1228, i due fratelli, maschi, le donarono il castello con gli arredi e le collezioni e l'annessa chiesa di San Pietro demolito. Filippa si trasferì nel possedimento con le sue compagne, naturalmente tenendo castello, ma soprattutto arredi e opere d'arte. Quindi un'ottima compagnia in un ottimo luogo. How high the ocean that's the way she sings it. So I'm gonna try to sing it that way for you. So here goes how high the moon. Shoo-be-doo-doo-doo-doo. Shoo-be-doo-doo-doo-doo-doo. Shoo-be-doo-doo-doo-doo. Shoo-be-doo-doo-doo-doo. Shoo-be-doo-doo-doo-doo. Shoo-be-doo. Sha-ba-ba-doo-doo-doo-doo-doo. Andando avanti nei secoli arriviamo al Settecento e troviamo un'altra celebre collezionista, Caterina la Grande, l'imperatrice Caterina II di Russia. Con Maria Teresa d'Austria è una delle grandi regnanti della sua epoca, il XVIII secolo, una di quelle donne regnanti che seppe aprirsi alle istanze della modernità e della nuova sensibilità sociale e politica del secolo dei lumi. Caterina è decisamente un'altra grande donna, è stata imperatrice per più di 30 anni. Quando prende la decisione di allestire la propria collezione di opere d'arte, sa che la sua pinacoteca dovrà competere con le più importanti del mondo e quindi si ispira alle collezioni d'arte che si erano andate formando nel secolo precedente a Parigi, città modello per il gran numero di collezionisti e appassionati d'arte. Così Caterina inizia a mandare presso le corti europee agenti appositamente incaricati di acquistare quadri e sculture, partecipando alle aste, recandosi dagli artisti e rivolgendosi ai collezionisti privati, fino ad arrivare a volte all'acquisto di intere collezioni. A lei si deve anche l'ampliamento dell'Ermitage di San Pietroburgo, che sappiamo che all'interno del museo sono conservate migliaia di opere, addirittura 8.000 solo nei depositi di quelle conosciute, dovuto proprio alla necessità, e l'ampliamento dell'Ermitage dovuto proprio alla necessità di collocare tutte le opere d'arte acquisite da lei negli anni. Oltre a commissionare un gran numero di ritratti, riesce ad acquisire anche molti dipinti importati dalla Francia ma anche dall'Italia. Aveva infatti una notevole passione per le opere degli artisti veneziani e per i bolognesi, ma amava anche le opere olandesi e fiamminghe. Quindi nella sua collezione si trovavano opere di Nicolas Poussin, di Rubens, ma anche di Tiziano e Veronese, così come di Reni e di De Carracci. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition, baby, just depends on you. I never mind. The rain in the skies, as long as there is sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, baby, it's because I love you. That's just how I am. What can I do? I'm happy when I'm with you. She But when I hate you, baby, it's because I love you, darling, that I have. What can I do? I'm always happy, so very happy. I'm always happy when I'm with you. Allora, in effetti, parlando di Caterina, le meraviglie dell'attuale Museo dell'Ermitage nascono dalla sua collezione. Quindi siamo arrivati adesso alla soglia dell'Ottocento, un'epoca che vede ancora nuove collezioniste e soprattutto però americane. Sono le scusate, c'è un allarme che suona fuori della finestra. Allora, siamo dunque arrivati alla soglia dell'Ottocento, un'epoca che vede ancora nuove collezioniste, soprattutto però americane. Sono l'espressione di un momento storico irripetibile, una nazione relativamente giovane e senza storia, gli Stati Uniti, che cerca di acquisire cultura e storia attraverso grandi campagne d'acquisto di opere d'arte europee, effettuate dai ricchissimi magnati del nascente impero economico americano. La seconda Isabella del nostro titolo, Isabella Stuart Gardner, è un esempio celebre. La sua storia e quella delle sue colleghe collezioniste è un'avventura affascinante e divertente che ti invito, a sorpresa, a raccontarci in un prossimo incontro dedicato dunque alle collezioniste del XIX e del XX secolo. Sì, lo farò con grande piacere. Confessa che hai uno svenimento di piacere al solo pensiero. Bene, ottimo. Allora, appuntamento alla prossima puntata di Vissi d'Arte, Vissi, per continuare a parlare di donne e collezionismo d'arte. A seguire potete ascoltare la puntata di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del CLR, dedicata questa sera a Suor Juana, immagino, Ginés de la Cruz. A seguire dalle 22, puro teatro, fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità, pièce teatrali femministe e lesbiche, in radio. La prima puntata è dedicata al cabaret lesbico livornese di e con Carlina Benvenuti. Abbiamo ascoltato canzoni interpretate da Joni Mitchell, Amy Winehouse, Sarah Vaughan, Nina Simone e Kelly Lee Evans. Saluto le ascoltatrici ringraziandole di averci seguito. Buona serata. Buona serata.